Recentemente, anche in Italia, nelle lasagne di una ditta emiliana è stata trovata carne di cavallo non dichiarata in etichetta. La carne di cavallo costa molto meno di quella di manzo o di maiale, perché i cavalli sono macellati clandestinamente, dopo che per tutta la loro vita hanno servito l'uomo come cavalli da corsa, da tiro, da soma. José Bové, dal Parlamento europeo, ha denunciato l'invio al macello di centinaia di migliaia di cavalli da parte della Romania. I cavalli sono stati vietati sulle strade della Romania e sono stati spediti al macello. Circa 30 milioni di chili di carne di cavallo, asino o mulo, sono stati importati in Italia nel 2012 provenienti, precisa la Coldiretti, per quasi la metà dalla Polonia, ma anche da Francia e Spagna, mentre poco più di 1 milione di chili proviene dalla Romania, che sembra essere uno dei principali imputati dell'Horsegate che sta sconvolgendo l'Europa. Il mercato della carne equina si è dunque saturato andando sotto costo e questo ha indotto le aziende trasformatrici, per ragioni di puro profitto, a sostituire il manzo con il cavallo. Secondo le analisi della Coldiretti, gli italiani sono tra i maggiori consumatori di carne di cavallo in Europa, con un quantitativo medio di 1 chilo a testa per un totale di 42,5 milioni di chili l'anno. Ne parliamo con Antonio Nardidei da Filicaia, presidente dell'Italian Horse Protection, un'associazione imprescindibile, punto di riferimento tutte le volte che si parla di equini. Buongiorno Antonio. Buongiorno a te Camilla. Margherita D'Amico chiedeva: mangereste una polpetta fatta con la carne di ribò? Carne della più formidabile macchina da corsa che abbia mai calcato un ippodromo. E poi nominava anche Varenne, Nearco, cavalli campioni. Adesso possiamo ancora dire che è soltanto una questione di etichetta, Antonio? Questo sarebbe in teoria soltanto un problema di frode in commercio. In realtà non è un problema di frode in commercio, è un problema un pochino più grande ed è un problema di sanità pubblica di cui tutti sapevano assolutamente tutto. L'etichettatura, puoi fare le norme più precise di questo mondo, ma se stiamo parlando di carne macellata, di animali macellati illegalmente, ovviamente si fa illegale anche l'etichetta, non è che cambia un granché. Quello che cambia è se manca la materia prima, cioè se i cavalli non si macellano. Perché? Perché come tutti gli altri animali, se io mi prendo la responsabilità di un essere vivente, ho questa responsabilità e ce l'ho per tutta la vita. Io non ammazzo il mio cane solo perché è un po' troppo anziano e non c'ha più voglia di seguirmi nelle mie lunghe passeggiate, no? E perché allora lo devo fare con il mio cavallo? La soluzione sta a monte. Se chi si prende la responsabilità di un animale lo fa per tutta la vita di questo animale, tutti questi problemi non esistono. Se chi alleva cavalli per le corse dovesse poi avere la responsabilità del suo animale per tutta la sua vita, cioè per quei 30, 35, 40 anni che vive un cavallo, non ci sarebbe questo problema di macellazione illegale. Tutto il settore questo si basa sulla macellazione. Se io faccio correre un cavallo a galoppo, per esempio, io allevo un cavallo, a un anno o a 2 anni, inizio a farlo correre, lo faccio correre per altri 2 anni, a 4 anni c'è un cavallo che non corre più. Dovrei mantenerlo per altri 30, 35. Ci risiamo, è una questione di profitto, una questione di mercificazione della vita, io ci vedo un nesso. Sì, ed è anche il prezzo da pagare nostro, perché diventa un abominio in realtà. Assolutamente d'accordo e questa trasmissione sostiene esattamente questo punto di vista. Ti ringrazio Antonio, continueremo a parlare di questo argomento e ancora una volta facciamo un breve appello per la questione di Colleferro. Che cosa si può fare per dare una mano? Tantissimo. Prima di tutto, nella maniera più semplice, facendo una donazione, che si può fare dal sito che è www.horseprotection.it, oppure contattandoci, consegnareci fieno, potete immaginarvi, per 150 cavalli, medicinali, materiale paramedico e così via. Questo perché abbiamo bisogno di tutto, molti degli animali stanno male. Un'altra cosa che è possibile fare: chi volesse prendere in adozione uno di questi cavalli può scrivere al Ministero della Salute, alla Task Force Animali, e se del caso, se volesse uno o due cavalli da compagnia, potrebbe essere il momento di farsi avanti. Metteremo tutte queste informazioni nel nostro blog, restiamoanimali.wordpress.com. Ringraziamo Antonio. Grazie Camilla, buon lavoro. No limit. Vi segnaliamo un appuntamento per stasera a Prato al circolo antispecista No Cage in via Borgo Valsugana 198, una serata con Sea Shepherd e la proiezione del film documentario The Cove alle ore 22 con le imprese di Sea Shepherd per salvare i delfini in Giappone. Al circolo è possibile cenare, ovviamente una cena vegan. Per prenotazioni circolonocage@gmail.com. E domani alle 18, sempre al No Cage, una conferenza sull'antispecismo con Leonardo Caffo. Domenica 3 marzo Restiamo Animali festeggia il suo primo compleanno. Taglieremo il traguardo con la redazione al completo in grande spolvero, in una trasmissione tutta in diretta per dialogare, rispondere e discutere con i nostri ascoltatori. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 73 99933 domenica 3 marzo poco dopo le ore 12.